Capitolo 37. Un colpo di fortuna e ciò che ne seguì. L'onore e la gloria di avere un innamorato tutto per sé capitarono presto anche a Molly, anche se non c'è dubbio, una lieve riduzione di quell'onore si verificò quando l'uomo che si era presentato nella piena convinzione di chiederla in matrimonio finì per fare la proposta a Cinzia. Si trattava di Mr. Cox, che era tornato a Hollingford per mantenere il proposito annunciato a Mr. Gibson quasi 2 anni prima, ovvero convincere Molly a diventare sua moglie non appena fosse entrato in possesso dell'eredità dello zio. Ora era un giovanotto ricco, per quanto sempre rosso di capelli. Giunse alla locanda George portando i suoi cavalli e il suo servitore. Non che avesse intenzione di cavalcare granché, ma pensava che tali segni evidenti della propria ricchezza potessero aiutarlo nel suo intento. Ed era così giustamente modesto nella stima di se stesso da credere di aver bisogno di ogni tipo di sostegno esteriore. Egli si vantava della propria costanza e, in effetti, considerando che era stato così limitato per via del proprio dovere, del proprio affetto e delle proprie aspettative nei confronti del suo vecchio e nodoso zio, da non aver potuto farsi vedere molto in società. E invero, raramente, in compagnia di giovani signore. La sua fedeltà a Molly era decisamente meritoria, almeno per lui. Anche Mr. Gibson ne fu colpito e si decise a lasciargli campo libero, contemporaneamente sperando che Molly non si sarebbe rivelata così oca da prestare orecchio e attenzione a un giovanotto che non riusciva mai a ricordare la differenza fra apofisi ed epifisi. Pensò inoltre di non rivelare alla moglie nulla di più in merito al passato di Mr. Cox, se non che era stato un suo allievo e che aveva abbandonato, per quanto ne sapeva lui, ben inteso, la professione medica perché un vecchio zio gli aveva lasciato abbastanza denaro da poter fare il pigrone. Mrs. Gibson, che sentiva come di aver perso i favori del marito, si mise in testa di poterli riconquistare se fosse riuscita a trovare un buon partito per sua figlia Molly. Sapeva che il marito le aveva proibito con tutta la chiarezza di significato possibile di fare questi tentativi, ma le sue stesse parole esprimevano così raramente le sue intenzioni e se lo facevano le sue opinioni erano così mutevoli che le era convinta che anche per gli altri valesse lo stesso. Di conseguenza diede a Mr. Cox un benvenuto molto dolce e molto cortese. È un tale piacere per me conoscere i vecchi allievi di mio marito. Vi ho parlato così spesso di voi che vi sento quasi uno di famiglia, come sono certa vi considera Mr. Gibson. Mr. Cox ne fu molto lusingato e interpretò queste parole come un buon auspicio per la sua storia d'amore. Miss Gibson è in casa? Chiese arrossendo violentemente. La conoscevo all'epoca, cioè. Sono vissuto nella sua stessa casa per più di 2 anni e sarebbe un grande piacere. Ma certo, sono convinta che sarà felicissima di vedervi. Ho mandato a chiamare sia lei che Cinzia. Voi non conoscete mia figlia Cinzia, credo, Mr. Cox. Lei e Molly sono grandi amiche. Sono uscite per una breve passeggiata con questa giornata gelida, ma penso saranno presto di ritorno. Continuò a parlare con il giovane di piacevoli nullità e lui ricevette quelle attenzioni con compiacimento, ma allo stesso tempo tenendo in allerta in attesa di sentire il mai dimenticato suono metallico della porta d'ingresso, il suo richiudersi con cura e il rumore di passi familiari, uno dopo l'altro sulle scale. E finalmente entrarono. Cinzia per prima, luminosa, radiosa, con un colore fresco sulle gote e sulle labbra e gli occhi vividi, brillanti. Sobbalzò alla vista dello sconosciuto e per un istante si arrestò sulla porta, come colta di sorpresa. Poi fece ingresso Molly, dolce, sorridente, felice con le fossette, ma mai splendidamente bella come Cinzia. Oh, Mr. Cox, siete voi? Disse, avvicinandosi a lui con la mano tesa e salutandolo con semplice amichevolezza. Sì, sembra passato così tanto dall'ultima volta che vi ho vista. Siete diventata molto, proprio tanto. Beh. Immagino di non dover dire cosa, rispose lui in fretta e tenendole la mano per tutto il tempo con un certo turbamento da parte di Molly. Poi Mrs. Gibson gli presentò la figlia e le due ragazze parlarono di come si erano godute la passeggiata. Mr. Cox arrecò danno alla propria causa in quel primo colloquio, ammesso che avesse mai avuto qualche possibilità, esprimendo così precipitosamente i propri sentimenti, e Mrs. Gibson l'aiutò a rovinare tutto tentando di assisterlo. Molly perse la propria spontaneità e iniziò a ritrarsi da lui in modo che egli ritenne molto ingrato, considerando che le era rimasto fedele per 2 anni. E dopo tutto lei non era poi quella meravigliosa bellezza che la sua immagine e il suo amore avevano dipinto. Quella Miss Kirkpatrick era molto più avvenente e molto più facile da avvicinare. Cinzia, infatti, aveva sfoderato tutte le sue bellezze, lo sguardo intento, appassionato a ciò che chiunque le stesse dicendo, indipendentemente dall'argomento, come se si trattasse della cosa che le interessava di più al mondo, la sua muta deferenza. In breve, tutte quelle sue maniere spontanee e istintive di solleticare la vanità dei maschi. Così, mentre Molly in silenzio lo respingeva, Cinzia lo attirava a sé con i suoi modi dolci e magliardi, e la costanza di lui si annullò a cospetto del suo fascino. Egli era lieto di non essersi spinto troppo in là con Molly e grato a Mr. Gibson di avergli proibito di dichiararsi 2 anni addietro, perché Cinzia, e solo Cinzia, poteva renderlo felice. Dopo una quindicina di giorni, nel corso dei quali la sua fedeltà aveva completamente cambiato destinataria, il giovane ritenne opportuno parlare con Mr. Gibson. Lo fece con un certo senso di esultanza per essersi comportato correttamente quella faccenda, ma allo stesso tempo vergognandosi parecchio per la confessione della propria mutevolezza, che la circostanza rendeva inevitabile. Ora, era successo che Mr. Gibson si fosse trovato insolitamente poco in casa nel periodo in cui Mr. Cox aveva ufficialmente alloggiato alla George, in realtà trascorrendo la maggior parte del tempo a casa di Mr. Gibson. Perciò aveva avuto poche occasioni di vedere il suo allievo di un tempo e nel complesso lo considerava migliorato, specialmente dopo che l'atteggiamento di Molly lo aveva rassicurato del fatto che Mr. Cox con lei non avesse alcuna possibilità. Ma Mr. Gibson era totalmente ignaro dell'attrattiva che Cinzia aveva avuto per il giovanotto. Nel caso se ne fosse accorto, l'avrebbe rapidamente stroncata sul nascere. Perché non sapeva di alcuna ragazza che, sebbene mezzo fidanzata con un uomo, avesse ricevuto la proposta da un altro. Se un discorsetto chiaro lo poteva impedire, Mr. Cox aveva chiesto una conversazione in privato. Sedevano nel vecchio ambulatorio che ora si chiamava Stanza delle Visite, ma che tuttora manteneva gran parte della sua identità precedente, ovvero quella dell'ultimo luogo in cui Mr. Cox si poteva sentire a proprio agio. Egli era rosso fino alla radice dei suoi capelli rossi e continuava a girare e rigirare il suo fiammante cappello nuovo tra le dita, incapace di trovare il modo giusto di iniziare la frase. Alla fine vi si buttò senza pensarci troppo, grammatica o non grammatica. Mr. Gibson, direi che rimarrete sorpreso, e certo io lo sono, da quanto voglio comunicarvi. Ma penso sia una qualità di un uomo d'onore, come voi stesso, signore, avete affermato un paio d'anni fa, parlare prima con il padre. E poiché voi, signore, fate da padre alla signorina Kirkpatrick, vorrei esprimervi i miei sentimenti, le mie speranze, forse potrei dire desideri, in breve. La signorina Kirkpatrick? Chiese Mr. Gibson, decisamente sorpreso. Sì, signore, proseguì Mr. Cox, tagliando corto ora che si era spinto così in là. So di poter sembrare incostante e volubile, ma vi assicuro che sono venuto qui con il cuore più fedele che abbia mai pulsato nel petto di un uomo, nei riguardi di vostra figlia. Avevo la piena intenzione di offrirle me stesso e tutto ciò che possiedo prima di andarmene, ma davvero, signore, se aveste visto come si è comportata con me tutte le volte che ho tentato di palesare il mio corteggiamento, era più che civetteria, era proprio ripugnanza, senza possibilità di errore. Miss Kirkpatrick, invece, abbassò pudicamente lo sguardo e lisciò la lungine del cappello, sorridendo un po'. Miss Kirkpatrick, invece, ripeté Mr. Gibson con una voce così severa che Mr. Cox, per quanto ora fosse un proprietario terriero, si sentì più avvilito di quando era apprendista e Mr. Gibson gli si rivolgeva in modo simile. Stavo solo dicendo, signore, che per quanto si possa giudicare dall'atteggiamento, dalla disponibilità ad ascoltare, dall'evidente piacere per le mie visite, nel complesso posso rischiare di sperare di non essere del tutto indifferente a Miss Kirkpatrick e io aspetterei. Voi non avete alcuna obiezione, vero signore, voglio dire, a che io le parli? Disse Mr. Cox, un po' ansioso a causa dell'espressione sul volto del dottore. Vi assicuro che non ho alcuna possibilità con Miss Gibson, continuò senza sapere che dire, immaginando che la propria incostanza scottasse nella mente di Mr. Gibson. No, suppongo che non abbiate. Non pensiate che sia questo a infastidirmi. Però vi sbagliate riguardo a Miss Kirkpatrick. Non credo abbia mai potuto avere intenzione di incoraggiarvi. Il viso di Mr. Cox si fece percettibilmente più pallido. I suoi sentimenti, per quanto effimeri, erano evidentemente intensi. Penso, signore, che se aveste potuto vederla, io non mi considero vanesio e il suo comportamento è difficile da descrivere. In ogni caso, non potete avere alcuna obiezione a che io sfrutti la mia occasione e le parli. Certo, se non volete persuadervi del contrario, non ho alcuna obiezione, ma se accettate il mio consiglio, vi risparmierete il dolore di un rifiuto. Forse sto tradendo una confidenza, ma penso di dovervi informare che i suoi sentimenti sono già impegnati altrove. Non può essere, disse Mr. Cox. Mr. Gibson, deve esserci un errore. Io mi sono spinto più lontano possibile nell'espressione dei miei sentimenti e la sua reazione è stata dolcissima. Non credo che possa avere frainteso le mie intenzioni. Forse ha cambiato idea. È possibile che ripensandoci abbia capito di preferire un'altra persona, no? Con un'altra persona intendete voi stesso, immagino. Posso credere a una simile incostanza. E nella sua mente egli non poté fare a meno di schernire l'esempio che aveva di fronte. Ma mi dispiacerebbe assai pensare che Miss Kirkpatrick se ne sia resa colpevole. Magari sì, è una possibilità. Mi consentite di incontrarla? Ma certo, mio povero amico, disse il medico, perché mescolando un po' di disprezzo, egli nutriva rispetto per la semplicità, l'ingenuità e la forza dei sentimenti, per quanto mutevoli. Ve la vado a chiamare immediatamente. Grazie, signore. Dio vi benedica, gentile amico. Mister Gibson prese le scale in direzione del salotto, dove era quasi certo di trovare Cinzia. Ed eccola lì. Luminosa e spensierata come sempre, intenta a confezionare un cappellino per la madre e a chiacchierare con Molly mentre lavorava. Cinzia, mi faresti una cortesia se scendessi subito nella mia stanza delle visite? Mr. Cox ti vuole parlare. Mr. Cox? Fece Cinzia. Cosa può volere da me? Evidentemente si diede una risposta non appena si fece la domanda, perché arrossì ed evitò di incrociare lo sguardo severo e inflessibile di Mr. Gibson. Non appena lei ebbe lasciato la stanza, l'uomo si sedette e prese il nuovo numero della Edinburgh Review appoggiato sul tavolo come pretesto per non fare conversazione. C'era qualcosa nell'articolo che un paio di minuti dopo gli fece dire alla silenziosa e stupita Molly. Molly, non devi mai giocare con l'amore di un onest'uomo. Non sai quale dolore potresti arrecare. Un attimo dopo Cinzia era tornata in salotto e appariva molto confusa. Molto probabilmente non sarebbe rientrata se avesse saputo che Mr. Gibson era ancora lì, ma era una cosa talmente inaudita che gli sedesse in una stanza nel mezzo della giornata leggendo, fingendo di leggere, che lei non aveva certo pensato che vi fosse rimasto. Egli alzò gli occhi nel momento in cui lei fece il suo ingresso, perciò la ragazza non poté che far finta di niente e riprendere il proprio lavoro. Mr. Cox è ancora da basso? No, se n'è andato. Mi ha chiesto di porgere entrambi i suoi rispetti. Credo riparta questo pomeriggio. Cinzia tentava di comportarsi nel modo più naturale possibile, ma non alzò gli occhi e la sua voce tremò un po'. Mr. Gibson continuò a guardare la sua lettura per qualche minuto, ma Cinzia sapeva che c'era qualcos'altro all'orizzonte e desiderò solo che arrivasse presto, perché quel silenzio austero era molto duro da sopportare. E alla fine accadde. Confido che questo non succederà più, Cinzia, disse il dottore, gravemente scontento. Non sarei soddisfatto della condotta di nessuna ragazza che, per quanto libera, ricevesse compiaciute le chiare attenzioni di un giovanotto, inducendolo così a fare una proposta che lei non ha mai avuto alcuna intenzione di accettare. Ma cosa devo pensare di una ragazza nella tua posizione, fidanzata, e che però ha una reazione dolcissima? Così, ha detto Mr. Cox, alla dichiarazione di un altro uomo. Non pensi a quanto inutile dolore gli hai recato con il tuo comportamento sconsiderato? Lo chiamo sconsiderato, ma è l'aggettivo più clemente che mi venga in mente. Ti prego di non far accadere mai più niente del genere, altrimenti sarò obbligato a definirlo con molta più severità. Molly non riusciva a immaginare cosa potesse essere quella molta più severità, perché i modi di suo padre le sembravano quasi crudeli nella loro intransigenza. Cinzia si fece tutta rossa, così impallidì e alla fine sollevò i suoi begli occhi imploranti e pieni di lacrime verso Mr. Gibson. Egli fu commosso da quello sguardo, ma decise immediatamente di non lasciarsi intenerire da nessuna delle malie della sua espressione, bensì di mantenere un giudizio obiettivo sulla sua condotta. Vi prego, Mr. Gibson, ascoltate la mia versione della storia prima di parlarmi così duramente. Io non avevo intenzione di flirtare, volevo solo rendermi simpatica, non posso farne a meno, e quello sciocco di Mr. Cox sembra aver immaginato che lo stessi incoraggiando. Vuoi dire che non eri cosciente del fatto che si stesse innamorando di te? Mr. Gibson era sul punto di sciogliersi e lasciarsi convincere da quella voce dolce e quel viso supplichevole. Beh, immagino di dover parlare con sincerità. Cinzia arrossì e sorrise solo un po', era un sorriso, ed ebbe l'effetto di indurire di nuovo il cuore di Mr. Gibson. Una o due volte ho pensato che si stava facendo un po' più complimentoso di quanto l'occasione richiedesse, ma detesto gettare acqua gelata sulla gente e non ho mai creduto che potesse mettersi in quella sciocca testa l'idea di essere seriamente innamorato e fare tutto questo chiasso all'ultimo e dopo una conoscenza di soli 15 giorni. Sembra tu fossi ben cosciente della sua scempiaggine. Io la chiamerei piuttosto ingenuità. Non pensi che avresti dovuto ricordare che questa l'avrebbe indotto a esagerare il significato del suo comportamento e delle sue parole, a interpretarli come un incoraggiamento? Forse. Direi che il torto è tutto mio e la ragione è tutta sua. Ribatté Cinzia, piccata e imbronciata. In Francia dicevamo che les absentes ont toujours tort, mentre qui sembra veramente che. E si interruppe. Non voleva essere impertinente con un uomo che rispettava e che le piaceva. Intraprese un'altra linea di difesa e forse peggiorò ulteriormente le cose. E poi Roger non mi ha consentito di ritenermi definitivamente fidanzata con lui. E io l'avrei fatto volentieri, ma non me l'ha permesso. Assurdità! Di questo non parliamo, Cinzia. Ho detto tutto ciò che intendevo. Credo che tu sia stata solo sbadata, come ho affermato prima. Ma fai in modo che non succeda più. Lasciò subito la stanza per mettere fine a una conversazione la cui prosecuzione non avrebbe avuto alcuna utilità e sarebbe forse terminata in modo per lui irritante. Non colpevole. Ma raccomandiamo al prigioniero di non farlo più. È così, no, Molly? Disse Cinzia, lasciando scendere le lacrime pur sorridendo. Credo veramente che tuo padre potrebbe farmi diventare una brava donna se solo si sforzasse e non fosse così severo. E pensare che quel piccolo stupido ha creato tutto questo danno. Ha finto di essersela presa a cuore, come se mi amasse da anni invece che da qualche giorno. Anzi, da qualche ora, a dire la verità. Temo che si stesse affezionando molto a te, commentò Molly. Almeno mi ha dato un paio di volte questa impressione, ma sapevo che non poteva trattenersi a lungo e pensavo ti avrei solo messa a disagio se avessi detto qualcosa in proposito. Ma ora vorrei averlo fatto. Non avrebbe avuto la minima differenza, affermò Cinzia. Sapevo di piacergli e mi piace piacere. È una cosa innata in me fare in modo che le persone a cui mi avvicino mi si affezionino. Però poi non devono spingersi tanto in là, perché quando lo fanno diventa un tormento. Odierò quelli con i capelli rossi per il resto della mia vita. Pensare che un tipo simile sia stato la causa dello scontento di tuo padre nei miei confronti. Molly aveva sulla punta della lingua una domanda che desiderava porle. Sapeva che era indiscreta, ma alla fine la pronunciò, quasi suo malgrado. Lo direi a Roger? Cinzia replicò. Non ci ho pensato. No, non penso che lo farò. Non ce n'è bisogno. Forse, semmai, ci sposeremo. Semmai! Esclamò Molly senza fiato. Ma Cinzia non si curò di quella reazione. finché non ebbe concluso la frase che era stata interrotta. E semmai potrò guardarlo in faccia per capire di che umore è. Allora potrei dirglielo, ma non per iscritto e finché è lontano. Potrebbe infastidirlo. Ho paura che lo metterebbe a disagio, osservò Molly con semplicità. Però deve essere così bello potergli dire tutto, tutte le tue difficoltà e i tuoi problemi. Sì, solo che non voglio preoccuparlo con queste cose. È meglio scrivergli lettere allegre e rinfrancarlo mentre si trova tra i neri. Tu hai ripetuto semmai un attimo fa. Sai, Molly, che non credo lo sposerò mai. Non so perché, però ho un forte presentimento. Perciò è meglio che non gli confidi tutti i miei segreti, perché sarebbe imbarazzante se lui li conoscesse e poi del matrimonio non se ne facesse niente. Molly lasciò cadere il lavoro e sedette muta guardando al futuro. Alla fine disse: Penso che gli si spezzerebbe il cuore, Cinzia. Sciocchezze! Beh, sono sicura che Mr. Cox era venuto qui con l'intenzione di innamorarsi di te. Non c'è alcun bisogno che tu arrossisca così tanto. Sono certa che te ne sei accorta quanto me. Solo che ti sei resa antipatica e a me lui ha fatto pena. Ho consolato la sua vanità ferita. Puoi. Osi paragonare Roger Hamley a Mr. Cox? Chiese Molly indignata. No, disse subito Cinzia. Non potrebbero essere più diversi. Non essere così tremendamente seria su tutto, Molly. Sembri oppressa da un terribile rimprovero, come se ti avessi passato la strigliata che mi sono buscata da tuo padre. Perché non penso che tu valuti Roger come dovresti, Cinzia, dichiarò Molly risolutamente. Perché le ci volle un bel coraggio per costringersi a parlare così, sebbene non sapesse perché facesse così tanta fatica a dire quelle parole. Sì, invece, non è nella mia natura sdilinguirmi e non credo sarò mai ciò che la gente definisce innamorata. Ma sono contenta che lui mi ami, mi piace renderlo felice e penso sia l'uomo migliore e più simpatico che conosco. Sempre eccettuato tuo padre, quando non è arrabbiato con me. Cosa posso dire di più, Molly? Vorresti che ti dicessi che lo trovo bello? So che molti lo trovano bruttino, però. Beh, allora condivido l'opinione di molti e non lo condanno. Ma mi piace il suo viso. Oh, è 10.000 volte meglio del fascino di Mr. Preston. Per la prima volta durante quella conversazione Cinzia parve veramente seria. Perché menzionasse Mr. Preston, né lei né Molly lo sapevano. Le uscì fuori, come per un impeto improvviso, ma nei suoi occhi scintillò uno sguardo feroce e le sue dolci labbra si contrassero mentre lo nominava. Molly aveva notato quell'espressione in passato e sempre facendo il nome di quell'unica persona. Cinzia, cos'è che ti dà tanto fastidio di Mr. Preston? A te non ne dà? Perché me lo chiedi? E comunque Molly, disse piombando all'improvviso nell'avvilimento, non solo nel tono e nell'espressione del viso, ma anche con un cedimento delle membra. Molly, cosa penseresti di me se alla fine sposassi lui? Sposarlo? Te l'ha mai chiesto? Ma Cinzia, invece di rispondere a questa domanda, continuò lasciando liberi i propri pensieri. Sono accadute cose più improbabili. Non hai mai sentito parlare di forti personalità che soggiogano quelle più deboli fino a sottometterle? Una delle ragazze della scuola di Madame Lefebvre è andata a lavorare come governante in una famiglia russa che vive vicino a Mosca. A volte penso che le scriverò, perché mi trovi un posto in Russia. E solo per scampare all'eventualità quotidiana di incontrare quell'uomo. Ma talvolta sembri molto in confidenza con lui e gli parli. Come posso evitarlo? Sbottò Cinzia con impazienza. Poi, tornando in sé, aggiunse: Lo conoscevamo così bene ad Ashcombe, e ti posso assicurare che non è un uomo di cui ci si possa liberare facilmente. Devo essere gentile con lui, non perché mi piaccia, e lui lo sa, perché gliel'ho detto. Comunque non parliamo di lui. Non so come ci siamo arrivate, questo è certo. Il solo fatto che esista e si trovi a meno di mezzo miglio da noi è già abbastanza brutto. Vorrei che Roger fosse a casa, fosse ricco e mi sposasse subito e mi portasse via lontano da quell'uomo. Se ci avessi pensato, credo davvero che avrei accettato quel povero pel di carota di Mr. Cox. Non capisco proprio, replicò Molly. Mr. Preston lo trovo sgradevole, ma non penserei mai di intraprendere dei passi così estremi come quelli che hai citato tu solo per allontanarmi dai luoghi in cui vive. No, perché tu sei un piccolo tesoro ragionevole, disse Cinzia, recuperando il suo solito umore avvicinandosi a Molly per baciarla. Almeno riconoscerai che io sono brava a odiare. Sì, ma non capisco lo stesso. No, non importa. Sono vecchie complicazioni risalenti ai nostri affari ad Ashcombe. Alla base di tutto c'è una questione di soldi, l'orrenda povertà. Ma parliamo d'altro. O ancora meglio, lascia che vada a finire la mia lettera per Roger e sarà troppo tardi per la posta africana. Non è ancora partita? Oh, avrei dovuto ricordartelo, è troppo tardi. Non hai visto l'avviso all'ufficio postale? Diceva che le lettere devono essere a Londra la mattina del 10 invece che la sera. Oh, mi dispiace tanto. Anche a me. Ma non ci si può far nulla. C'è da sperare che quando la riceverà sarà per lui una festa anche più grande. Ho nel cuore una preoccupazione ben più pesante, perché tuo padre sembra così irritato con me. Io gli voglio bene e ora lui mi rende paurosa. Vedi, Molly, continuò un po' pietosamente. Non ho mai vissuto prima con persone che avessero un modello di condotta così elevato e non so proprio come comportarmi. Devi imparare, suggerì Molly teneramente. Troverai che Roger è altrettanto accurato nelle sue nozioni di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma lui è innamorato di me, disse Cinzia con una notevole consapevolezza del proprio potere. Molly girò la testa e tacque. Era superfluo contestare la verità e lei avrebbe tanto preferito non sentire, non sentire, povera ragazza, di avere a sua volta un grosso peso nel cuore e ritrarsi dall'indagarne le ragioni. Per tutto quell'inverno si era sentita come se il suo sole fosse avvolto in una nebbia grigia e non potesse più brillare vivido per lei. La mattina si svegliava con la sorda sensazione che qualcosa non andasse per il verso giusto, che il mondo fosse scardinato, e se toccava a lei metterlo a posto, non sapeva come fare. Per quanto avesse preferito essere cieca, non poteva fare a meno di percepire che suo padre non era soddisfatto della moglie che si era scelto. Per molto tempo Molly era rimasta sorpresa dalla sua apparente contentezza. A volte era stata abbastanza altruista da essere lieta della sua serenità, ma sempre più frequentemente la sua natura aveva la meglio e lei era quasi infastidita da quella che considerava la sua cecità. Ora, però, qualcosa lo aveva cambiato, qualcosa che era nato nel momento del fidanzamento di Cinzia. Egli era divenuto nervosamente sensibile ai difetti della moglie ed era sempre secco e sarcastico, non solo con lei, ma talvolta con Cinzia e persino, ma molto raramente, con la stessa Molly. Non era uomo da lasciarsi andare ad eccessi di collera e a scoppi emotivi improvvisi. Così si sarebbe sfogato, pur degradandosi ai propri stessi occhi. Invece era diventato duro e occasionalmente amaro in ciò che diceva e ciò che faceva. Molly ora aveva appreso a rimpiangere la scomparsa cecità in cui il padre aveva trascorso il primo anno di matrimonio. Eppure non si verificavano scandalose infrazioni della pace domestica. Alcune persone potrebbero dire che Mr. Gibson si rassegnava all'inevitabile. Egli diceva tra sé e sé più semplicemente che era inutile piangere sul latte versato e per principio evitava veri e propri alterchi con la moglie, preferendo tagliar corto una discussione con un'espressione sarcastica o lasciando la stanza. Per di più, Mrs. Gibson aveva un'indole molto tollerabile e la sua natura quasi felina faceva le fusa e trovava diletto nelle maniere dolci e nella piacevole quiete. Non le era granché facile comprendere il sarcasmo. È vero che ne era disturbata, ma poiché non ne era lesta a decifrare significati sottintesi e trovava seccante pensarci, se ne dimenticava il prima possibile. Eppure, percepiva di trovarsi spesso in disgrazia nell'opinione del marito e ciò la faceva sentire a disagio. In questo somigliava a Cinzia. Le piaceva piacere e voleva riottenere la stima che non capiva di aver perso per sempre. Talvolta Molly prendeva in segreto le parti della matrigna, sentiva che neanche lei stessa avrebbe potuto sopportare con tanta pazienza le parole aspre del padre. Queste le avrebbero trafitto il cuore e lei avrebbe chiesto una spiegazione e sondato il problema fino in fondo, oppure sarebbe stata disperata e miserevole. Mrs. Gibson, al contrario, dopo che il marito lasciava la stanza in simili occasioni, diceva più meravigliata che offesa. Penso che il caro papà oggi sia un po' turbato. Dobbiamo fare in modo che quando torna trovi una cena che sia di suo gradimento. Spesso ho notato che tutto dipende da come si fa sentire a proprio agio un uomo nella sua casa. E via di questo passo, brancolando nel tentativo di trovare il modo di rientrare nelle sue grazie, sforzandosi veramente secondo la sua natura, finché Molly spesso era costretta a compatirla a suo malgrado, e pur sapendo che la matrigna era la causa della crescente durezza del padre. E in effetti, egli era entrato in quello stato di esagerata suscettibilità riguardo alle mancanze della moglie, che può essere meglio esemplificato da quell'irritazione fisica prodotta dalla costante ricorrenza di un particolare rumore. Semmai indotti a farci caso, coloro che vi vengono avvicinati sono inclini a restare sempre allerta, in attesa che si ripeta, trovandosi così in una condizione di nervosismo. Dunque, la povera Molly non aveva trascorso un inverno felice, al di là delle sofferenze personali che potesse serbare nel proprio cuore. Non aveva neppure una bella cera. Gradualmente la sua buona salute andava scemando, pur senza precipitare nella malattia. Il suo cuore batteva più lento, più debole. Lo stimolo vivificante della speranza, persino di una speranza non riconosciuta, era sparito dalla sua vita. Sembrava come se non ci fosse e mai potesse esserci in questo mondo alcun rimedio per la muta discordia tra il padre e sua moglie. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, Molly avrebbe potuto simpatizzare con suo padre e compatire la matrigna, soffrendo molto per entrambi, e di certo più di quanto Mrs. Gibson soffrisse per se stessa. Molly non poteva pensare di avere un tempo desiderato che suo padre aprisse gli occhi e di aver immaginato che se fosse accaduto egli sarebbe stato capace di cambiare il carattere di Mrs. Gibson. Non c'era soluzione e l'unico tentativo di trovare un rimedio era pensarci il meno possibile. E poi l'atteggiamento di Cinzia nei confronti di Roger metteva Molly fortemente in imbarazzo. Credeva che Cinzia non si curasse poi molto di lui e comunque che non nutrisse quel tipo di amore che lei personalmente avrebbe dimostrato se fosse stata così felice. No, non era questo, se si fosse trovata al posto di Cinzia. Sentiva che sarebbe andata da lui con entrambe le mani tese, traboccante di tenerezza, e che sarebbe stata riconoscente per ogni parola di preziosa confidenza che avesse ricevuto. Invece Cinzia accoglieva le sue lettere con una certa noncuranza e le leggeva con una strana indifferenza, mentre Molly sedeva ai suoi piedi, per così dire, rivolgendo all'insù due occhi pieni di desiderio, come quelli di un cane che aspetta le briciole e altre simili e incuranti concessioni. In quelle occasioni Molly tentava di mantenersi paziente, ma alla fine era costretta a chiedere: "Dove si trova Cinzia? Cosa dice?" E ormai Cinzia aveva già posato la lettera sul tavolo accanto a sé, sorridendo un po' di tanto in tanto, come ricordando le parole d'amore che conteneva. "Dove? Oh, non ho guardato bene, da qualche parte in Abissinia, a Huon. Non riesco a leggere la parola, ma non ha importanza perché non mi darebbe alcuna idea." "Sta bene?" chiese Molly, avida. "Adesso sì, ha avuto un piccolo attacco di febbre, dice, ma adesso è tutto passato e spera di acclimatarsi." "Febbre? E chi si prende cura di lui? Avrà bisogno di cure, così lontano da casa. Oh, Cinzia! Non credo abbia ricevuto delle cure, poveretto. Uno non si aspetta infermieri, ospedali, dottori in Abissinia, ma aveva parecchio chinino con sé e immagino sia la medicina migliore in questo caso. Comunque, dice di stare meglio adesso." Molly tacque per un paio di minuti. "Che data riporta la lettera, Cinzia?" "Non ci ho fatto caso." "Il 10 dicembre?" "Quasi 2 mesi fa." "Sì, ma io ho deciso di non angosciarmi inutilmente mentre via. Se qualcosa andasse male, capisci?" disse Cinzia usando un eufemismo per morte, come fanno in molti. È una brutta parola da pronunciarsi schiettamente e ad alta voce nel pieno della vita. "Sarebbe tutto finito prima che io sapessi della sua malattia e non gli sarei utile in alcun modo, giusto, Molly?" "Sì, direi che è tutto vero. Solo penso che lo Squire non la prenderebbe così alla leggera. Gli scrivo sempre un biglietto quando ricevo notizie di Roger, ma non penso gli parlerò di questa febbre. Dovrei, Molly?" "Non so", rispose Molly. "Si direbbe che dovresti, ma io vorrei quasi non averlo saputo. Per favore, c'è altro che posso sentire?" "Oh, le lettere degli innamorati sono così sciocche e penso che questa sia più sciocca del solito", replicò Cinzia riguardando la lettera. "Ecco una parte che puoi leggere, da questa riga fino a qui, indicando i due punti. Io stessa non l'ho letta perché mi pareva noiosa, tutto Aristotele, Plinio, e voglio finire questo cappellino prima che usciamo per le nostre visite. Molly prese il foglio e le attraversò alla mente il pensiero che lui le aveva toccato, che ci aveva posato le mani in quelle distanti lande desolate, dove forse era invisibile a chiunque e il suo destino ignoto a tutti. Mentre leggeva, le sue belle dita abbronzate accarezzavano delicatamente la fragile carta. Si imbatté in riferimenti a libri che avrebbe potuto procurarsi lì a Hollingford con pochissimo sforzo. Forse i dettagli e le citazioni avrebbero potuto rendere un po' pesante e insipida la lettera agli occhi di alcune persone, ma non a quelli di Molly, grazie agli insegnamenti che lui un tempo le aveva impartito e l'interesse che aveva suscitato in lei per i propri studi. Però, come gli scriveva in tono di scusa, di cosa poteva parlare in quei territori selvaggi, se non del suo amore, delle sue ricerche e dei suoi spostamenti. Non c'era compagnia, non c'era allegria, non c'erano nuovi libri di cui scrivere, non c'erano pettegolezzi nella deserta Abissinia. Molly non era in forze, e forse era questo a renderla incline a fantasticare, ma certo è che i suoi pensieri di giorno e i suoi sogni la notte erano tormentati dall'idea che Roger giacesse malato e abbandonato in quelle terre sperdute. La sua preghiera costante: oh mio Dio, rendile la creatura viva e non ucciderla. Le usciva dal cuore sincera come quella della vera madre dopo il giudizio di Re Salomone. Lascialo vivere, anche se io non potessi mai più posare gli occhi su di lui. Avi pietà di suo padre, concedi che possa tornare a casa sano e salvo e vivere felice con colei che ama così teneramente. Così teneramente, oddio. E poi scoppiava in lacrime e si addormentava infine fra i singhiozzi.